Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Iniziamo con il primo appuntamento rientrando in diretta dopo il GR di Radio Popolare per il Last Minute di oggi, giovedì 23 novembre. Anticipiamo quello che sarà nel weekend per una data importante, il 25 novembre 2023, dalle ore 18 in via Gorki 12 a Bologna, il non senso del possesso. La drammaturgia e il coordinamento registico è curato da Luisa Vitali, che è qua al telefono con noi. Buongiorno Luisa, bentornata. Buongiorno Willy, grazie. Grazie a te per la levataccia, ecco, quindi però ne è valsa e ne vale assolutamente il motivo di impegno, perché di impegno si tratta. È un appuntamento molto esteso, è un appuntamento che vede diverse protagoniste, sono quattro tappe sensoriali nella violenza sulle donne per capire, riflettere e porsi domande. Andiamo in approfondimento a questi concetti, Luisa, in che modo hai dato adito a tutto ciò? A te la parola. Ma di solito si parla della violenza sulle donne in modo frontale, no? Cioè il pubblico e l'attore, per cui si rimane sempre spettatori. Ho cercato di creare invece un qualcosa che colpisse le persone e gli spettatori, per cui c'è un viaggio attraverso il senso dell'udito, quindi quelle frasi che vengono dette. Che sono violenza psicologica, l'oppressione, quindi cosa vuol dire sentirsi ristretti nel proprio spazio e toccati magari da persone che non si conoscono all'improvviso, anche che si conoscono ma in situazioni di restrizione. Alla vista viene proiettato un video a mo' di spot con alcune immagini sulla violenza, fino a una lettura breve di una violenza subita. Secondo me è il modo per rendersi conto anche di cosa vuol dire subire violenza, perché magari una mano appoggiata su una spalla sembrerebbe una cosa da nulla, ma se io non la voglio è violenza, soprattutto magari da uno sconosciuto. Quindi abbiamo cercato di dare un'altra visione del problema, cioè per sentire realmente cosa può provare una donna, una ragazza. È una visione sensoriale, esattamente come sì. Hai dato motivo di riflessione, e oltre, dove la parola, l'ascolto, l'immagine diventano protagonisti in istanti, in sensazioni, sì. In aspetti che vengono spesso trascurati, mentre invece sono quanto mai importanti. Le protagoniste, oltre a Luisa Vitali, sono Irene Papotti, Gaia Caponigri, Valentina Alberto e Costanza Casadei. Il non senso del possesso, questa già l'immagine che troviamo nella locandina è quanto mai esplicita, con una mano che ormai ha reso in cerca d'aiuto, ma soprattutto in cerca di ascolto, in cerca di un'attenzione per quello che ho cercato di spiegare in precedenza, che molte volte viene disatteso per una trascuratezza e quella che è una nefasta normalità alla quale purtroppo non dobbiamo assolutamente abituarci. Luisa, ovviamente io invito gli uomini all'attenzione. Sì, sarebbe molto importante che venissero gli uomini, perché noi donne lo sappiamo, cioè è una cosa che ci tocca da vicino, mentre per l'uomo a volte, ribadisco, anche una cosa banale, tipo il mandare 10 messaggini così, e che uno dice vabbè, ma cosa ho fatto? No, hai fatto, cioè molto spesso non se ne rendono conto, e invece rendersi conto e provare cosa vuol dire, secondo me è importante. Per cui sarebbe certo. Molto, molto importante che venissero i maschi, come si suol dire. e da questo aspetto, che può sembrare qualcosa trascurabile, tutt'altro, si parte invece con una grande attenzione per poi ampliare ed evitare determinate manifestazioni che troviamo purtroppo sempre presenti nei casi da cui diamo notizia, tristemente, in maniera molto preoccupata, ma ci siamo per diffondere le modalità culturali per tutto ciò che può essere l'eliminazione della violenza sulle donne. È il 25 novembre, ho letto oggi appunto affermazioni da una giornalista dal Domani che diceva è importante ripartire dalla cultura, è fondamentale. Sì. Io l'ho riletto perché ho condiviso assolutamente sì. questa affermazione. Penso che anche tu sia in linea. Sì, secondo me la repressione va bene, cioè nel senso che se uno commette deve avere una pena, però non è quella che toglie ed elimina il problema. Bisogna ricominciare dalla cultura fin da piccoli. Sì. Ed è fondamentale, cioè parlare con i ragazzi da piccoli, spiegare, esserci e soprattutto essere anche degli esempi. Esattamente, quello è importante. Quindi, certo, perché la parola insegna, ma l'esempio poi dà la strada. Il esatto. primo gruppo, secondo gruppo e terzo gruppo, prenotazione obbligatoria, do il numero, anche se sì. potete trovare tutte le informazioni su luisa.vitali@rimacheride.it per le prenotazioni al 335 6820 121. Hai diviso lo spettacolo o sono tre appuntamenti sempre della stessa realtà di palcoscenico, Luisa? Sono tre appuntamenti sempre della stessa realtà, perché i gruppi non devono essere numerosi, altrimenti certo. si perde okay. il concetto. Per cui sono proprio è lo stesso spettacolo ripetuto tre volte. Sì, sì, chiaro, chiaro. Scusa se ti chiedo queste informazioni logistiche nell'immediato, è per far capire anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, perché giustamente, come hai detto quando ci siamo messi in collegamento, è un aspetto che tu volevi dare in maniera assolutamente diretta. Quindi sì. la divisione esatto. per avere una comunicazione più incisiva è tale. Intanto allora ringraziamo anche la sede, il palcoscenico, chiamiamolo così. Ci puoi dire qualcosa di più? Ma allora, questo è Via Gorgio 12, è una sede che nel quartiere Nabile, che è gestita da varie associazioni che lavorano, che fanno laboratori di vario genere, per cui quando noi abbiamo parlato col quartiere Nabile, che si è stato molto disponibile, abbiamo cercato una sede e è venuta in mente questa, e le associazioni che ci sono hanno aderito più che volentieri a questa idea, a questa proposta, mettendoci a disposizione proprio lo spazio, e quindi vi ringraziamo molto, perché non è certo, una cosa che non tutti è immediata, fanno. Non è una cosa immediata, no? No. Il non senso del possesso, percorso sensoriale nella violenza sulle donne, il 25 novembre 2023 dalle 18 in via Gorchi 12, la drammaturgia e il coordinamento registico curato da Luisa Vitali, che sarà anche in scena, quattro tappe sensoriali nella violenza sulle donne per capire, riflettere e porsi domande. Il percorso prevede gruppi di spettatori, prenotazione obbligatoria, si parte alle 18, a seguire 19:30 e 21. Io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione nel last minute odierno, cara Luisa. Grazie a te, Willy. E poi ovviamente avremo modo di ritrovarci a proposito di tutto ciò che è Rimacheride e tutta la collaborazione esatto. con i 103.1, ok? Certamente. Grazie. Intanto buona giornata. Grazie anche ancora. A te. Ciao Luisa. Grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao. We'll be right back. E il nostro last minute procede col secondo appuntamento per quanto riguarda il weekend. Ringrazio ancora Luisa Vitali per la partecipazione nella nostra agenda di oggi 23 novembre. Si procede con un appuntamento esteso nel weekend, il programma della mostra mercato del fumetto Anafi 2023 a Bologna. Torna la mostra mercato del fumetto, Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione, è l'acronimo appunto Anafi, la più grande mostra italiana del fumetto e di antiquariato e da collezione, giunta alla sua 67esima edizione. Avremo modo, grazie alla nostra sede qua di Radio Città Fujiko, per quanto il riguarda il centro di ricerca Il Pioniere, con Alfredo Pasquali, con Morena Moretti e tanti altri pionieri che hanno motivo di approfondimento sulla realtà di fumetto, immagine, grafica, illustrazione e non solo, di avere modo di contatto per dare anticipazione a questo incontro di diffusione e di approfondimento culturale sul fumetto e non solo. Morena ha intervistato per quanto riguarda l'incontro Paolo Gallinari, autore presente a questa edizione. Sentiamo appunto la loro conversazione, a tra poco. Paolo Gallinari, 67esima edizione del fumetto di antiquariato e collezione che Anafi organizza a Bologna. Le novità di quest'anno? La prima novità è il fatto che questa mostra continua indefessamente e irrimediabilmente a essere un punto fermo nel calendario dell'anno per gli appassionati collezionisti di fumetti. Purtroppo, e dico purtroppo nel senso che vorrei che sentissero di più, la nostra mostra queste caratteristiche, quindi rivolte principalmente a un pubblico di appassionati, di collezionisti che vengono da tutte le parti d'Italia, è rimasta praticamente, non dico l'unica, ma una delle pochissime che si rivolge a questo pubblico. Per questo tutti gli anni abbiamo un pubblico che viene da tutte le parti d'Italia, sia il pubblico che naturalmente gli espositori che espongono i loro fumetti. Questa diciamo che non è una novità, ma è una preziosa conferma, perché purtroppo diverse manifestazioni hanno preso, come potrei dire, fumetto o comics nel nome, ma in realtà purtroppo hanno pochissimo di fumetti, di comics, nel senso che di fumetti spesso non ci si trovano proprio. Ha preso un po' questa deriva, diciamo così, il mondo del fumetto, a partire dalla famosa Lucca Comics and Games, dove ci sono tanti games e pochi comics, potrei dire, ma dipende anche naturalmente dal fatto che dire, il mondo cambia, i supporti anche su cui si possono leggere letteratura, fumetti, cambiano, e diciamo che la nostra è rimasta una nicchia preziosa, importante per gli appassionati. Però ricchissima, voi proponete mostre, avete ospiti, quindi incontri, saranno presenti le case editrici, delle associazioni con sorelle, ecco, qualche perla di questa edizione, qualcosa che da non perdere, ce la puoi suggerire, Paolo? Allora, ci sarà una piccola ma preziosa mostra dedicata a un grande del fumetto, ma anche più che altro dell'illustrazione italiana, che è stato Walter Molino. Walter Molino è stato famoso soprattutto per le copertine della Domenica del Corriere, quando sostituì Achille Beltrame, per Grand Hotel, di cui disegnò anche la famosa testata. E quindi stiamo parlando di un autore che ha caratterizzato un cinquantennio, si può dire, dagli anni 40 fino agli anni 90, che è scomparso nel 1997 già. Questo sarà una piccola, un itinerario, diciamo così, nella vastissima produzione di Walter Molino. Poi abbiamo all'interno della nostra manifestazione, ci sono tantissimi espositori nel senso di collezionisti che vendono parte delle loro collezioni, i doppi, eccetera. Ci sono case editrici, piccole case editrici, devo dire, perché le grandi case editrici di solito si, tra virgolette, sfogano all'interno di grandi manifestazioni come Lucca Comics and Games, che è stata pochi giorni fa, ma abbiamo alcune case editrici piccole ma combattive, da Menhir di Monza Comics, abbiamo Editrice Cosmo, abbiamo Kata Publishing, abbiamo Lara di Bologna, anche l'editoriale Mercury. Sono tutte case editrici che hanno una loro caratterizzazione precisa all'interno del mondo del fumetto. C'è chi ristampa classici, chi pubblica magari materiali che vengono da oltreoceano ma che non hanno quelle tirature soltanto tirature da grandi case editrici. Ed è un mondo che trova una sua collocazione all'interno di mostre come la nostra. Non parliamo poi delle associazioni, come l'Associazione degli Amici del Vittorioso, tanto per dirne una, o l'Associazione La Nona Arte, che è per i propri soci prepara dei veri e propri dossier su autori classici, o l'AMIS, l'Associazione dei Nipoti di Martin Mister, che del personaggio naturalmente ha fatto una propria bandiera e che vedrà naturalmente come ospite, come viene tutti gli anni, Alfredo Castelli, che è l'autore nonché creatore del personaggio di Martin Mister. Introduco Alfredo Castelli per dire che ci saranno almeno una quarantina di autori presenti fra ospiti della manifestazione e ospiti degli espositori delle case editrici. Tantissimi sono quelli legati per l'appunto a Martin Mister, visto che c'è l'associazione apposita. Ah, moltissimi anche quelli legati a Zago, a Tex, sottolineo la presenza e la partecipazione di Laura Zuccheri, bolognese di origine, ma che ha girato un po' tutto il mondo, che ha fatto operato su tantissimi fronti. Ultimamente anche lei è diventata un'autrice che ha fatto storie brevi di Tex. Per variare dal mondo del fumetto al mondo dell'illustrazione, noi siamo ANAFI, che vuol dire Associazione Nazionale Amici dell'Illustrazione, avremo un incontro con Paola Pallottino, che è, potremmo dire, il numero uno in Italia per quanto riguarda la storia dell'illustrazione italiana, che farà un incontro nella sala incontri, così come anche Laura Zuccheri, così come anche tutto il vario numero di autori che si occupa di Zagor. Poi avremo una presentazione di libri, come per esempio il libro di Luca Salvagno. Luca Salvagno forse dirà tanto a molti, ma Luca Salvagno è, potremmo dire, l'erede di Iacovitti dal punto di vista dei personaggi che ha ereditato e che pubblica tuttora su Il Giornalino, come Cocco Bill, per esempio. Infatti verrà presentato per l'occasione il primo volume delle tavole che Luca Salvagno ha pubblicato, delle storie che su Il Giornalino, con tutte le storie di Cocco Bill nonché di Zorri Kid, e quindi per questa presentazione con l'autore. Sono due giornate compressissime, ricchissime, e soprattutto piene zeppe di fumetti, che questa è la cosa che è importante, perché spesso avere le manifestazioni che si richiamano i fumetti senza vedere i fumetti è veramente strambo. La 67esima edizione curata dall'ANFI al padiglione fieristico, poi avrete indicazioni più precise ancora. Intanto mi correggo per quanto riguarda invece la data, che è quella nel weekend, quindi è sabato domenica imminente. Oggi il nostro Last Minute si è incentrato per appuntamenti nel weekend. Il programma della mostra mercato del fumetto ANAFI 2023 a Bologna. Padiglione 23 con ingresso da Piazza della Costituzione, mostra del fumetto sabato 25 e domenica 26. Preciso. Pubblicità, poi andiamo in mostra. Una mostra incantevole, una mostra che mi ha rapito totalmente. Avremo modo di darne approfondimento con diverse voci. Siamo a Palazzo Magnani, Reggio Emilia. Avanguardia, marionette, con tutti i protagonisti che hanno avuto modo di esprimersi tra immagine, teatro, arte e periodo storico veramente molto importante. Tra pochissimo sui 103.1 in mostra.